rotonda sul mare. Il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Amore mio, dimmi se sei triste così come me, dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te, se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Sempre sai, ti penso, una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me.